No, perché è bene che i nostri quattro ascoltatori sappiano che stiamo parlando di arte. Cos'è sta musica? Ah, ecco, no, però va bene così, dai, mettiamo partiamo, questo è Robin Thicke, si dice. Perché così, no, oggi sono senza computer perché la Francesca Referta si è rubata le chiavi della mia aula a Torino e dunque ho dovuto lasciare la valigia con dentro il computer a Torino per una settimana. Domani la recupero, comunque è così. E dunque comunque parliamo di arte contemporanea per il delirio di Arte Fiera. Anzi, adesso, siccome non ho finito di fare il post di Instagram, vi faccio sentire un altro po' di questo pezzo, che così lo preparo. Male sto pezzo, devo dire, è simpatico. Non so dove l'ho preso, appunto, perché non ho il computer e naturalmente non posso neanche condividere niente, per cui saluto Giffo che magari ci sta ascoltando, però francamente non saprei stasera. E dicevo, fra l'altro ho fatto un altro errore madornale, cioè mi ero messo nella borsa il pieghevole di Art City, soltanto che è troppo grande, per cui esce dalla borsa e a un certo punto durante la giornata è rotolato fuori e non ho nulla di cui parlare. Perfetto. Che è fantastico. Andiamo a braccio, anzi, vai, adesso che la memoria trattenga le informazioni più significative. Beh, c'è anche da dire che comunque registrando quello che stiamo facendo aiuta, perché poi si può sempre riascoltare. Poi bisogna infondere la curiosità di cercare il proprio evento. Ottimo, vedi, però ricordati che tu hai un microfono a parte. Va bene. Molto bene, così ti si sente meglio. E cominciamo con ordine, anzi, visto che dalla mia sinistra. Dunque, innanzitutto sappiate che inaugura tutto, tipo, no, non è vero, inaugura il Mambo mercoledì, ma tutto il resto inaugura venerdì o sabato, giusto? Esatto. Allora, anzi. Sì, no, in realtà è tutto aperto da venerdì, però l'opening è sempre sabato, giusto? Ma io ho una domanda, no, che non noi c'era. Noi inauguriamo venerdì. Ah, ecco. Anche noi auguriamo. Noi qui da questo lato della barricata inauguriamo venerdì. Anche noi da questo lato inauguriamo. Perfetto. Venerdì. Quindi, qui sì, sì, nella, 18 a Radio Città Fujiko tutti. Tutti venerdì. Sì. Ok, allora ma sappiate che tutti i luoghi diversi. No, infatti mi sono ricordato non anch'io adesso. Esatto, manca anche Tiberio, per cui lo salutiamo, però magari arriva, chissà. Comunque, ciao, se siete fuori, mandatemi un WhatsApp oppure suonate, perché comunque ho scoperto che riesco a darvi il tiro da qua, cosa che invece la settimana scorsa non ero riuscito a fare. Dicevamo, partiamo da in alto a sinistra con Sculptural Training, che è una collettiva con degli artisti. Adesso leggo anche tutti gli artisti: Joseph Beuys, Domenico Brancale, Daniele D'Acquisto, Nicolò Morgan Gandolfi. È sempre uno, no? Nicolò, sì, Morgan, sì, Gandolfi. Sì. Ok, no, no, perché va a capo a un certo punto. Alberto Scodro e Marcello Tedesco, che mi sembra di averlo sentito nominare anche prima, e Moe Yoshida. Esatto. Ok, cosa ci raccontate di questa mostra? Niente, come suggerisce il titolo, è un addestramento alla scultura, naturalmente cercando di superare una concezione tradizionale, quindi legata alla produzione di un manufatto tridimensionale. L'addestramento che abbiamo messo in campo è un addestramento legato a un tipo di pensiero che noi abbiamo denominato pensiero scultoreo. Naturalmente bisognerebbe fare una così... Sì, aiutami se mi incarto. certo. Stavi andando benissimo. Stavo. Esatto. Fino però, adesso però è ormai andato. Per cui passiamo alla prossima mostra. Scherzo, no, innanzitutto volevo dire, cioè volevo interromperti un attimo per ricordare che stiamo parlando di una mostra al Museo Temporaneo Navile, di cui non abbiamo quasi mai parlato, forse l'abbiamo menzionato una volta o due, di cui nessuno sa nulla. Che stavo, cazzo è sto, stavo sto dicendo museo questo, in stavo entrando in merito appunto al progetto di relativo a MTN, che è un museo che è nato da un anno in Bolognina. Solo un anno sembra già un decennio. A noi che lo dirigiamo sembra un decennio, in effetti. Ed è, diciamo, è un progetto nato con delle finalità molto specifiche, ovvero non quello di fare un museo classico tradizionale. Naturalmente noi siamo in un contesto sociale molto particolare che presenta delle criticità. E il committente che ha sostenuto questo progetto, la Valdadige Sistemi Urbani, ha desiderato. Ho creduto che l'arte potesse svolgere una funzione sociale molto importante. Quindi questo insinua un dubbio, però ha creduto, quindi forse no, sbagliando. Visto che ha confermato anche per il 2020 il suo sostegno, sì, insomma. Ah, perché rischiavate di essere chiusi domani? No, okay. Il progetto è un progetto, diciamo, almeno di 2 anni. Però naturalmente tutti questi progetti sperimentali poi vanno verificati di volta in volta. Quindi l'idea principale, l'impulso iniziale era quello di portare l'arte in un contesto sociale molto particolare e fare dei progetti fatti apposta per il contesto dove noi operiamo. Simone Menegoi, quando è venuto a trovarci, ha subito individuato qual è, diciamo, la caratteristica proprio del luogo, che è proprio legato a... Mi ricordi cosa ha detto Simone quando... Sì, l'ha definito un po' un luogo di frontiera. Esatto, no? Un luogo di frontiera. Effettivamente, anch'io la prima volta che sono arrivato ho detto, cavoli, qua siamo veramente... Certo, perché sì. È un cantiere. Sì, abbastanza in mezzo a niente, malgrado sia vicinissimo. Vicinissimo, siamo a 500 metri dalla stazione, vicinissimo al centro storico, tuttavia è una zona di frontiera. Quindi quando si lavora in un contesto così bisogna... lavorare in un determinato modo, anche vicinissimo all'ex XM24 anche vicino che allora salutiamo con affetto a Studio Cloud, già che siamo qua, esatto. Sì, la Bolognina, tu lo sai meglio di noi tutti, è sempre stata molto, insomma, ricca di esperienze artistiche anche negli anni passati. Ho fatto questa ricognizione sul museo molto semplice perché nelle nostre intenzioni, visto che il progetto è nato da 2 artisti e non da 2 curatori, abbiamo subito dato un impulso molto artistico al progetto, nel senso che ad esempio noi abbiamo subito immaginato questo museo, che è sostenuto anche dal comune, quindi ha una funzione anche istituzionale, come fosse una scultura. Quindi di scultura, anche se in senso lato, si è iniziato a parlare fin da subito. Naturalmente una scultura non in senso tradizionale. Qui vedete tra i nomi degli artisti Beuys, quindi naturalmente ci riferiamo alla scultura sociale, no? Joseph Beuys in Bolognina sta benissimo. Viaggia, che è una bellezza. Sta benissimo. Ma perché anche tu lo avevi proposto. Sì, cioè esatto. È praticamente una presenza, un ospite fisso della Bolognina. E tra l'altro io penso che a Joseph Beuys comunque la Bolognina secondo me sarebbe piacerebbe piaciuta. Molto. Allora noi di fronte al museo abbiamo un campo e praticamente di tanto in tanto spunta una lepre. E noi diciamo, ecco l'apparizione di Beuys. Ogni tanto spunta Beuys. Quindi, ecco, la scultura di cui parliamo si ispira naturalmente alla scultura sociale di Joseph Beuys, che a sua volta si è ispirata a Rudolf Steiner. Mm-hmm. Quindi l'addestramento legato al pensiero di cui parliamo è un addestramento che va in quel solco, cioè rivitalizzare il pensiero, togliere quanto di dialettico c'è, di stanco, di culturale anche, per renderlo non tanto un contenuto quanto una forza, e in quanto forza può agire plasticamente sulla società. Noi siamo lì con questo scopo, non tanto fare delle mostre e basta. Quindi ad esempio questa mostra, come tutte le mostre che noi proponiamo, ne abbiamo fatto 10 nel 2019, però. Esatto, sono, come dire, c'è la mostra dove l'artista non porta le opere che ha in studio, assolutamente, si fa un progetto che sviluppa l'artista e che poi viene realizzato appositamente. Viene realizzato appositamente, se ne parla insieme e poi insieme alla mostra di solito c'è un incontro con un curatore o una persona che introduce al pubblico, fa una visita guidata per così dire. Poi un altro aspetto molto importante che ci diciamo è tipico di MTN è tutto l'aspetto legato alla formazione. Quindi ad esempio abbiamo una convenzione con l'Università di Bologna, questo vuol dire che ospitiamo dei giovani e fanno un percorso formativo al museo. Abbiamo una convenzione con i licei del quartiere, il che vuol dire che per ogni mostra vengono una o più classi a visitare la mostra e avere un'esperienza diretta e viva dell'arte. Sembra quasi di non essere in Italia. Il progetto in effetti è nato a Berlino, forse questo forse questo ha aiutato, come l'idea dire. L'idea è quella di avvicinare un po' le persone all'arte contemporanea, tant'è che una delle due sale, abbiamo la main room e la project room, nella project room rimangono le opere un mese e poi per il mese successivo a chi ne fa richiesta e ci sono stati, le opere vengono prestate agli abitanti per il primo anno della trilogia Navile e ora saranno tutta la città. Museo quindi, diffuso. Museo esattamente. Diffuso. Chi è che si piglia il Joseph Beuys? Sono Cesare e Pietro Iusti. No, per la mostra. E stai ascoltando Coxo Spaziale. Spettrale. C'è una voce spettrale. Tra l'altro io ci avevo pensato a Pietro Iusti adesso che lui parlava di Vero. Tutte queste cose. Sì, mi era proprio venuto in mente lui un po' per la faccenda dell'artista curatore di museo, perché lui adesso è anche Direttore del Palexpo. Io sostengo comunque questa svolta. Ma perché? No, vabbè, così in modo del tutto beh, anche tu hai avuto delle esperienze a riguardo, insomma. È un museo anche quello attivo. Da direttrice del Museo dell'Homme. Io nel mio piccolo. Ma tu, fra l'altro, io ho una domanda per te, Chiara. Scusa, il Museo dell'Homme non lo dovevi abbandonare in qualche modo a se stesso, invece continua imperterrito a fare progetti sempre più grandi. Non ho capito come hai fatto a farci stare una figura come Franco Vaccari dentro un museo così piccolo come il Museo dell'Homme. No, beh, questo non lo rivelo perché voglio che la curiosità degli ascoltatori aumenti, quindi verrete a constatare come fa Franco Vaccari a entrare dentro al Museo dell'Homme. Questo è interessante. Ed è il McGuffin della mostra. Ok. Detto questo, sì, io no, beh, l'ho abbandonato. L'ultima mostra che ho fatto prima che diventasse proprietà dell'istituzione Bologna Musei si chiamava L'ora in poi. Cioè vuol dire da ora in poi, no? Era proprio l'ora in poi. E niente, io non seguo delle particolari, cioè lascio che le cose un po' capitino e continuano a chiedere di fare cioè adesso questa idea è stata di Luca Panaro, devo dire io un po' glielo dovevo a Luca Panaro che è il curatore di questa mostra di Franco Vaccari, perché lui è stato uno dei primissimi sostenitori del Museo dell'Homme della primissima ora, cioè ha creduto in questo progetto e però non c'era mai stata occasione di lavorarci assieme, quindi insomma era anche un atto dovuto, nonché poi la presenza di Franco Vaccari, che è strettamente legata come intenzione poetica, secondo il mio parere, poi sentiremo cosa ne dice lui venerdì, perché Franco Vaccari noi inauguriamo venerdì, lo ricordo, venerdì alle 7. Chi è puntuale arriverà alle 7, vedrà Franco Vaccari in persona, oltre alla sua opera. Okay. Poi non c'è riproduzione piccolina, una miniatura della Hachette dentro al Museo dell'Homme. Perché poi Franco Vaccari inaugura anche una grande mostra personale. Piccola mostra venerdì e quella grande mostra sabato adesso. Alla P420. La P420. Ne hai sentito parlare Luca Rossi della P420? È stata spesso nel mio mirino. Nel tuo mirino? Fantastico. E perché? Dici. No, perché fanno un lavoro che per una galleria oggi credo sia l'unica strada, ossia prendere artisti originali e affiancarli a giovani. Questo lavoro però a volte ha delle trappole, cioè il giovane che non crea uno spostamento col suo lavoro ma va semplicemente a riproporre quello che è successo nel Novecento, quindi i famosi giovani Indiana Jones, no? Che io in questi anni ho argomentato in modo anche eccessivamente approfondito. E quindi la P420 è una galleria che io stimo e proprio per questo ne parlo, cioè io solito parlo e critico cose che stimo, per cui provo anche un sentimento della galleria Astuni. Non ti ho mai sentito parlare. No, la galleria Astuni, no, che il motivo per cui sei qui è che partecipi a una collettiva, la galleria Astuni. Sì, sì, partecipo alla galleria Enrico Astuni di Bologna, che inaugurerà venerdì alle ore 18 con una mia performance, tra l'altro. Si dice performance. Però qui è scritto per staccato performance, è una cosa nuova. Okay. Ti presenteremo per la prima volta proprio quindi con una sua pronuncia tutta, tutta nuova, sua pronuncia nuova. E io ci sarà Alberto Angela, quindi la mia versione che si chiama Albero Angela, che presenterà la mostra dal vivo, quindi, cercando di riportarla, e qui mi collego con il Museo del Temporaneo del Navile, al pubblico, cioè trovare un valore concreto dell'arte contemporanea per la nostra vita di tutti i giorni, cioè questo, riavvicinare il pubblico all'arte. Questo venerdì alle ore 18. Questo venerdì alle ore 18. In via Barozzi 3. Via Barozzi. Esatto. Sì. Facciamo un riepilogo di tutti gli orari. Cioè lui alle 18. No, perché no, infatti. Voi e noi alle 18. Alle 18. Invece io alle 17 all'autostazione. Perché, ah, è giusto. Perché ho donato un'opera, alla Alice Zannoni, che salutiamo, per questa mostra, chiamata Se ci sono. No, non mi ricordo più. Se ci sono ancora, no? Setup. Detto questo, è arrivata l'ora delle pubblicità, per cui perfetto. Ci lasciamo per pochissimo. Sono Serena Brami e ascolto Coxo Spaziale. Vuoi sentire i sapori e i profumi di una volta? www.camilla.coop. Coxo Spaziale. E me, mamma. Ah, ecco, infatti, no, pensavo anch'io questa cosa qua. Questo è il nome del... Allora, questo, perché visto che siamo in tema di spazio, questo è il nome di un asteroide interstellare a cui Franco Vaccari ha voluto dedicare una sua opera video che sarà visibile alla P420. Ok. Ottimo. Probabilmente, no, non lo so, però esiste veramente questo, no, non riesco più a trovarlo. Comunque abbiamo capito. Nel frattempo su Facebook mi arrivano dei messaggi un po' inquietanti, tipo Sarno che si fa il selfie con Salvini, eccetera. Però anzi, siamo in par condicio, per cui non posso menzionare nessuno. Non menzioniamo il fatto che domenica ci sono le elezioni, ma continuiamo a parlare di arte contemporanea. Sì, dire gli artisti della mostra da Enrico Astuni? Per correttezza. Aspetta un attimo. Vabbè. Arte contemporanea. Ecco, adesso puoi dirli. Allora, la mostra si chiama SPA, Società per Azioni Artistiche, e quindi mette al centro le azioni artistiche, quindi le opere sono delle conseguenze, sono dei testimoni di queste azioni. E se ne prende cura Giacinto Di Pietrantonio con Carla Accardi, Cuoghi Corsello, Alberto Garutti, Peter Alley, Susan Lacey, David Medalla e Luca Rossi. Ma che bello! No, infatti, questo è il gruppetto. Dei manca giusto Joseph Boyce, ma perché siamo già dall'altra parte dei viali. No, e lui fa solo. Ce l'abbiamo noi. Lui viene solo in Bolognina. Allora, voi siete quattro, perché l'altra volta che sono venute. Sono venuti Leonardo Santoli e Giulia Bonora, abbiamo fatto il cadavere squisito, per cui voi siete quattro, vi do il cadavere squisito, vi do quattro, esatto. Penso che almeno qualcuno di voi saprà come funziona. Io allora devo ricordare a tutti, per l'occasione, di precipitarsi ad acquistare le copie residue di Obsolete Sheet numero 37. Absolutely. Interamente basato sul concetto di cadaveri squisiti. Vero? Giusto. Mi dovete spiegare le istruzioni. Tu spiega le istruzioni al gioco. Le penne sono lì davanti a voi. No? Perché infatti il cadavere squisito che hanno fatto la Giulia Bonora e Santoli, l'ho già messo nel numero Obsolete Sheet numero 93. Allora c'è il copiato. Sì, certo. Devo dirlo a Ingrid Nordstrom e Olof Berg. Ma faresti benissimo. Intanto che voi fate questa cosa, magari ascoltiamo. Mi è arrivato un pezzo reggae tipo dalla Germania, per cui magari lo ascoltiamo. Queste sono le regole delle giocone. Porque este chico me saca de quicio. Hay suelto tanto peligroso malnacido que por avaricia pierde el juicio y siempre se aprovecha de lo mismo. Pero no cambiarán nuestro destino. Y mientras sigaste sin sentido, con el mundo a la deriva perdido, somos muchos los que lucharemos unidos por un mundo mejor y más digno para todos los que aquí vivimos. Ya está bien de tanto abuso y civilismo. No voy a cambiar, frente al mal seguiré siendo igual. Seguiré siendo igual, mis raíces fuertes y profundas me protegen si hay tempestad. Como una piedra, cualquier filo que quiera atacarme se quiebra. Inténtenlo como quieran, pero no pueden con el nuestro. Vengo con la cista desde Praga y digo basta. Tus ideas, tus maneras no nos representan. El que tenga voz que hable y el que tenga ojos que vea. No hay justicia sin amor, mi hermano, y esa es la tarea. De una vez más ya llega el Bingyman cruzando fronteras, miren, no voy a cambiar. A ver si se enteran. Siete live su Instagram. Beh, intanto vi ricordo che questa è la 296esima puntata di Coxo Spaziale. Stiamo ascoltando del reggae che arriva dalla Germania, che si chiama No Voy a Cambiar di United Flavor, ma questo non ha nulla a che fare con Arte Fiera e del delirio che ci sarà questa settimana, perché io, ahimè, mi sono dimenticato tutto il programma di Art City, che effettivamente potrei guardarmelo sull'iPad, se non fosse che sto facendo live su Instagram con loro che fanno siete molto concentrati in questa cosa, mi fa molto piacere. Fare un programma radio non basta, dai, almeno come minimo ci vuole un cadavere squisito in mezzo. Un canale dedicato su Sky. Esatto, ci vorrebbe un canale dedicato su Sky. No, io tentavo di ricordarmi quali sono le mostre importanti da non perdere. Sicuramente ha inaugurato Muntadas venerdì a Villa delle Rose, che è una bella mostra, anche se devo dire che manca un po' di didascalie, io che sono un po' didascalico. Però volte. Lui ha molto insistito sull'importanza di questo aspetto, ti ricordi anche la sera del talk? Ecco, già mi stai mettendo in difficoltà. No, non ti ricordi, hai dormito? Sì, stavo dormendo, no, ero su Instagram. No, lui ha detto proprio che a lui dà fastidio questo discorso della didascalia. C'è stato un momento in cui Roberto Pinto, secondo me, era anche un po' preoccupato, perché aveva paura che lo mollasse lì, così, davanti al pubblico, nell'inerzia verbale più assoluta. L'ho visto un momento scosso. E poi invece dopo è rientrato nel ruolo e ha raccontato tutto quello che si deve raccontare, però ha detto che a lui non piace questo fatto. Le didascalie le ha fatte mettere fuori, d'accordo. Secondo me era un gesto polemico. Ok, no, effettivamente è vero. E poi invece mercoledì inaugura questa collettiva al Mambo, di cui naturalmente non ricordo i nomi, forse sarebbe il caso di aprire internet, però non sì, lo anche perché io non ti so aiutare, che qua mi sono tutta impelagata, perché ma è anche bello lasciare le persone ricercare, no? Secondo è me. Vero, dagli un input, andatevi a cercare, diciamo, esatto, solo cosa devono cercare, le informazioni che devono cercare. E secondo me quello che devono fare è andare su ATP Diary, esatto, dove c'è dove c'è un articolo di Gwendalina Piselli, che salutiamo, che ciao, appunto ha fatto una bella lista di tutti quelli che sì. Però ci sei tu, Astuni c'è? Penso che nel momento in cui ci sono io su ATP Diary non è possibile. Noi ci siamo. Voi ci siete. Ah, ecco, Vaccari c'è, ma il Museo dell'Homme no. Vaccari c'è con la mostra grossa, ma non c'è con la mostra piccola. Ma secondo me si era stancata la Elena Bordignon di parlare del Museo dell'Homme. Ma io la capisco, mi sono stancata anch'io. Vedi. No, però così non inviti tanto i nostri fantastici radioascoltatori a venire. No, invece secondo me, vabbè, mercoledì, poi giovedì naturalmente inaugura la fiera, perché tutto sto casino nasce perché è attorno alla fiera. E inoltre ci sono queste altre fiere satelliti. Che sono così un po' così, secondo me la cosa da non mancare è la mostra, cioè è Luca Rossi che fa Albero Angela da Astuni alle 18 di venerdì, e poi Joseph Beuys naturalmente in Bolognina, e poi Franco Vaccari al Museo dell'Homme, e poi Ivana Spinelli a Galleria Più, che pur non essendoci, cioè fa un personale a Galleria Più, bisogna. Noi venerdì abbiamo alle 19 alle 20 due performance, una di Domenico Brancale e una di Moe Yoshida. Quindi ci sono anche queste cose. Inauguriamo alle 18. Sulla performance di Moe Yoshida, noi una nostra cara amica, che possiamo approfittare per citare, Lucia Lamberti, certo, ci sarà anche Lucia dietro le quinte. Cioè lei parteciperà alla performance. Parteciperà proprio alla performance. Assolutamente, Lucia sarà dentro la performance. Performance. Come dice la Marina. Performance. Comunque, domani su www.coxospaziale.blogspot.com mi prenderò la briga di fare almeno mandare il link delle vostre quattro mostre. Grazie. Tre più la mia, e anzi cinque, mettiamo anche l'Ivana Spinelli e poi anche il link su ATP Diary. Perché poi in realtà ci sono anche altre cose che sicuramente non sarebbero da mancare, perché poi la cosa incredibile è che alcune di queste mostre durano quattro giorni, tipo quella che c'è all'oratorio di San Filippo Neri, curata da Maura Pozzati, che è molto bella, cioè dura, finisce domenica, capito? Per cui avete esattamente neanche una settimana, no, più invece o meno una settimana di tempo. Fino a maggio, ho visto. Ah, ecco, fantastico. Fino a primavera inoltrata. Poi Albero Angela sarà. Scusate. Sì, performance. Albero Angela sarà anche in fiera il 23, 24 e 25 a fare delle visite guidate speciali in fiera. Quindi questo me l'ho dimenticato. Ah, che fantastico! E questo è una sorta di corollario della mostra, perché partiranno dalla colazione che si fa in galleria la mattina, e da lì chi vuole poi può fare la visita con Albero Angela in fiera. Ma che bello, io che sì. Sono, non proprio io, ma comunque una persona a me vicina è possessrice di VIP card, però non c'è questa cosa nelle cose opzionali, quelle cose che tu puoi scegliere. Questo è una cosa clandestina, Io penso che andrebbe proprio. Fra l'altro, per i VIP che hanno l'accesso ad Arte Fiera, venerdì alle 14:30 c'è la performance di Jimmy Durham. Quanto dura? Com'è che si chiama? Office Bureau si chiama. Non lo so, dura comunque, secondo me, non così tanto da dire che poi non si può andare. Io sono sempre ostracizzato nelle fiere, anche Artissima mi hanno detto che non potevo parlare, quindi io non posso fare niente di ufficiale. Sono il reietto del sistema dell'arma. Qualcuno doveva farlo questo ruolo, no? Eulalia Valdosera si chiama l'artista spagnola che ha inaugurato domenica all'oratorio di San Filippo Neri una mostra a cuore di Maura Pozzati. Quella lì, se siete in giro per il centro, non mancatela, perché è veramente tosta. Oltretutto è di fronte al Museo dell'Homme. Ah, perfetto. Quindi prendete due piccioni con una fava. Esatto, due piccioni con una fava. Poi adesso sto guardando tutta la lista di quello che c'è, che ne so, Claudia Losi al Mambo, eccetera, Francesca Ferreri alla casa Morandi. Poi c'è Io sono un pittore nello studio privato di Concetto Pozzati, quello ormai i biglietti non si, no, invece si è perso perché i biglietti sono già finiti, non si, e quindi basta. Esatto, tantissime cose. E poi c'è anche questa collettiva interessante, Three Body Configuration, con Claude, come si pronuncia lei? Cahun? Köln, Valley Export e Ottonella Mocellin. Mocellin lo sappiamo. Se mi sente Fabiola, che non so pronunciare Claude Köln, mi uccide. Ma secondo me lei ha detto Köln l'altro giorno. Ok. Ma perché poi So pronunciare Muntadas, facile. Sempre Muntadas è facile. Sì, è vero. È una cosa brutta. Però volevo dire anche che sabato chi vuole fare quattro salti alla Galleria Astuni c'è il DJ set. Ma chi è? Dimmi che cosa. È un nome molto difficile da pronunciare, però ripeto, a me piace lasciare anche libertà di poi cercare la cosa. Ah, certo. E c'è anche in quell'occasione, prima del DJ set alla Galleria Astuni, un buffet col pesce dell'Adriatico. Cavoli, Asmagna da Bon. No, effettivamente Astuni è ben famoso proprio per avere il buffet migliore. Cioè, su questo non io la prima tutti. Volta che l'ho visto a una fiera mangiava un panino con la cotoletta. Però era una cotoletta dell'Adriatico. Sicuramente. Esatto. E quindi Klutkan. Klutkan. Ma hai capito? Dunque sono le 19:46 e secondo me dobbiamo sentire questo pezzo che invece non lo trovo più. Ecco, questo di Josh Gura che si chiama Track 5, è abbastanza facile da pronunciare. Ottimo. Però dura poco, eh. Attenzione che è finita la musica. No, in realtà non è ancora finita, però state andando bene. Windsurf magico, queste sono le stelle. Esatto. Gli occhi, siamo pianeti, windsurf. È un gioco bellissimo. Ti sei divertito, io porterei il tiro. Mainstream assolutamente. Beh, proponi alla VIP Lounge questo lavoro, questo intrattenimento, secondo me ha un valore, credo che potrebbe, avessi un po' di soldi da investire, sinceramente. Ma infatti io sono convinto che praticamente i dadaisti avevano già fatto tutto, non c'è stato più bisogno di altro praticamente. Secondo me sono anche meglio uno, soprattutto questo, guarda, è venuto veramente bene. E qui parte dal soggetto delle opere che saranno in mostra. Questo poi lo E dunque siamo tornati in diretta sempre su Radio Città Fujiko 103.1 FM con Coxo Spaziale naturalmente e dunque quello che vi volevo dire 5 minuti fa, adesso sono passati 4 minuti ma va bene lo stesso, era che se avete qualcos'altro da aggiungere che ci manca, fatelo adesso perché poi ci dimentichiamo. Allora io per esempio tu non ci hai detto che cosa succede venerdì. Quindi prima parlo di noi, giustamente. Allora, venerdì succederanno due cose. Il lavoro che presenta Franco Vaccari è un'opera video del 66, ecco. Che si intitola Nei Sotterranei. E lui ha fatto questo, diciamo, questo cortometraggio, corto, sui graffiti di luoghi appunto sotterranei, bagni ex bagni pubblici e altri luoghi dell'underground urbano, e mi sembrava molto collegato alla genesi del Museo dell'Homme nella suo esordio, perché voi sapete che il Museo dell'Homme è tutto completamente sfregiato dai primi spettatori che hanno potuto disporre di questi bulini per fare un po' quello che gli pareva. E quindi c'è questo, diciamo, questo rimando. E io riproporrò un'opera che avevo fatto nel 2010 proprio in onore di Franco Vaccari, in risposta a Franco Vaccari, che si chiama Prendi una traccia del tuo passaggio, perché lui, la sua esposizione intemporale numero 4, lascia una traccia fotografica del tuo passaggio, la famosa biennale del 72. Pardon. Mm-hmm. Ovviamente è la sua opera più nota. Certo. Però mi sembrava che, a forza di lasciare delle tracce, insomma, che qualcosa si dovesse riprendere indietro. E quindi io nel 2010 avevo ideato questo happening di frottage in cui ciascuno potrà prendere una traccia del Museo dell'Homme e portarsela con sé. La tiratura sarà determinata dal numero di partecipanti. E così vediamo anche Franco che cosa ne dice, perché io l'ho fatta dedicandola a lui, ma lui non lo sapeva, adesso lo viene a sapere. Chissà, magari non gli piace. Che bello. Anche questo potrebbe essere una sorpresa della mostra. Il frottage. Magari litighiamo davanti al pubblico, chissà. Lo racconto ai miei studenti di tecniche grafiche speciali. E poi invece cos'altro dovevi dire? No, perché ti ho vista abbastanza. Ma perché mi sentivo di voler citare questa mostra un po', come dire, forse fuori da. Ma in un certo solco della tradizione, che però ritengo interessante, che è Anne Veronica Janssen alla Galleria Studio G7, inaugura il 25 e con tempi prolungati come gli altri vernissage della Notte Bianca, certo, compresa quella della P420, artista belga, classe 56, che definirei post-materica. Uh-huh. Io la definirei post-materica, sei d'accordo? Sì, assolutamente. Quasi quasi ti metto dove è andato, ti metto sta cosa qua. Non abbiamo fatto l'angolo della menzione stasera, ma è come se l'avessimo fatto, perché di fatto non stiamo facendo nient'altro. E dunque, Luca, che cos'altro ci devi raccontare? Posso raccontare che cercherò in questa occasione dalla Galleria Ricastuni un po' di stimolare sempre di più il senso critico. Rispetto anche quando ho detto senso critico mi si è distrutta la cuffia, e quindi c'è qualcosa di sovrannaturale probabilmente in quello che ho fatto in questi anni. Sarà senz'altro forse a tipidare che non vuole che parlo, che non vuole il tuo senso critico, però sì, credo che sia la cosa fondamentale oggi, no? Cercare di alfabetizzare in senso non colonialista, ma non proprio retorico, non diciamo, retorico, in senso proprio di accogliere il pubblico e cercare di mettere le opere d'arte alle corde, cioè cercare di capire qual è il valore dell'arte contemporanea per la nostra vita. Se non riusciamo a partire da qui, il mercato, arte fiera, gli spazi indipendenti, tutto va in difficoltà, va in una sorta di mancanza di ossigeno, cioè bisogna recuperare a uma il valore dell'arte contemporanea per la nostra vita quotidiana. Quindi sì, noi siamo d'accordo con questo punto di vista, sì, anch'io, e stiamo dire. Cercando anch'io, di sviluppare a nostro modo le cose che diceva Luca, anche perché io sono convinto che l'interesse del pubblico ci sia, semplicemente siamo noi che non siamo in grado di agganciare in maniera corretta questo interesse. Infatti anche la cosa che faccio di Alberto Angela, mi sono accorto quando l'ho fatta che ha questa magia, cioè la gente e chiunque si ferma, perché ho la retorica di Alberto Angela, poi però gli parlo di arte contemporanea, gli parlo dell'antico Impero Romano, che semmai è interessante, ma non parla di cose che ci riguardano. Ma non cosa... vuoi far sentire una battuta alla Piero Angela? Ma sì, dai, dici qualcosa. All'Alberto Angela, scusa. All'albero. Lui non dialoga mai, quindi devo parlare. Perché fare non un piccolo... ci racconti qualcosa di queste opere che abbiamo sotto i nostri occhi? Qui davanti a noi abbiamo qualcosa di straordinario. Dovete immaginare di trovarci all'interno di una cisterna romana del XII secolo avanti Cristo. Proserpina, che era la figlia del governatore di Bologna, veniva proprio qui da Fujiko in città e creava dei disegni esattamente come questi che potete trovare su Obsolete Sheet. Fantastico. No, io nel frattempo col mixer tentavo di darti proprio quest'aura e invece ho fallito miseramente. Invece Marcello stavi dicendo qualcosa. La cosa che diceva Luca si può dire anche in un altro modo, cioè il valore della narrazione. Cioè noi siamo abituati a appunto un modo dialettico di raccontare l'arte che secondo alcuni non funziona più. Mentre ritornare, come dire, a una brillantezza della narrazione, noi abbiamo visto in questo primo anno al museo che apre completamente le porte, cioè delle persone comuni, normali, che non sono per forza, no, vicine all'arte, cambiano completamente atteggiamento, però bisogna essere dei grandi narratori, certo. Specificarsi, no, ma infatti, in questo. Io sono convinto che l'idea della figura del, com'è che si chiama? Il mediatore culturale. Non funziona quella tanto. No? No, no, perché quella non è una narrazione. Dipende da chi la fa. No, dipende molto, dipende molto da chi la fa, certo. Può anche essere una mediazione. Però quello, come cioè, dire, è un'espressione del pensiero dialettico, discorsivo, culturale. Io parlo di altro. Ha alzato la mano. Hai alzato la mano, prego. Posso dire, prof, secondo me la mediazione funziona se la fa un artista, come la direzione del museo. Infatti, mentre pensavo a questa cosa, stavo per dire: guarda, la mediazione migliore mi è successa alla Fondazione Sandretto Rere Baudengo, ma in realtà non era un mediatore culturale, bensì era, com'è che si chiama quello che canta, dai, non mi viene il nome, Ragnar Kjartansson, Alex Cecchetti, famosissimo, no, l'artista che ha vinto la Biennale, quello che non fa, non si, le cui performance non... Tino Sega. Esatto, in realtà c'era questa ragazza che era un lavoro di Perfetto, Tino Sega, sì, che sì, ti avvicinava e ti cantava una canzone quasi sussurrata ed era una roba spettacolare. Questo è anche uno dei temi su cui ha lavorato tanto il Museo dell'Om, trasformare tutto in opera, esatto. Perché questa è la cosa interessante, qualsiasi cosa, anche le difficoltà, anche quello che non ci piace, tutto. E vi dirò di più, i mediatori culturali a volte rischiano di essere un boomerang, perché uno, il museo fa mediazione culturale, pensa di avere la coscienza a posto, ho i mediatori culturali e va tutto bene, in realtà i mediatori, se non sono formati adeguatamente o non sono artisti o non hanno comunque una capacità, rischiano di riportare il pubblico sulle aule didattiche e fare una cosa estremamente noiosa. Pesante e noiosa da seguire, certo. Quindi in francese, e quindi questo credo che sia oggi veramente la frontiera su cui lavorare. Infatti mi interessa moltissimo il vostro progetto e ti aspettiamo, e mi dispiace che non lo conoscevo, cioè mi dispiace, adesso sono contento, perché anche questa idea della, come diceva Simone Menegoi, di lavorare sulla frontiera, ecco, la frontiera fisica è forse dov'è il museo. La frontiera concettuale è proprio questa nuova mediazione col pubblico. Assolutamente. E comunque Simone Menegoi sappia che prima o poi lo bracco e lo porto a Coxo Spaziale anche lui. Io, ahimè, vi devo silenziare perché sono le 19:58 e alle 20 comincia Basso Profilo. Quest'ora, ahimè, è volata. Le pubblicità stanno per partire, per cui io l'unica cosa che posso dire è innanzitutto grazie mille a tutti voi, e mettere le parole del nostro direttore che dice: con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Questo era Coxo Spaziale, io ero Stefano W. Pasquini e ci sentiamo lunedì prossimo. La sigla è un po' inquietante, però finirà presto perché le pubblicità stanno per partire. città Fujiko, sai che ti dico, Radio Fujiko, città Fujiko per voi.